ourselves comfortable again. And you can change your position if you want, you know, if it feels uncomfortable. And I'll explain the progress of this particular practice. Spiegherò il progresso di questa pratica particolare. Avete tutto bisogno della traduzione, vero? No, posso andare. Ma io puoi capire in inglese, tu la senti cosa? Sì. Cos'è? Tu la conosci? Sì. Maybe we can do a top translation. Which one is it? Make it more natural. Okay. Well, at least the explanation anyway. It's okay for us. Yeah. At least the explanation. In the scriptures, the Buddha talks about meditation on the body. Nella scrittura il Buddha parla di meditazione, della meditazione sul corpo. And for some reason there seems to be lacking a way of turning the metta towards the body. E sembra che però manchi qualcosa che riguardi il rivolgere la metta al corpo. There's a lot of exercises that we'll be doing, at least two of them, which are concerned with getting the right attitude to the body. Quindi ci sono una serie di esercizi che faremo, almeno due, che riguardano l'assumere l'atteggiamento giusto riguardo al corpo. But only in its negative form. Ma solo nella sua forma negativa. Turning the metta towards the body is something that I've taken really from, I think, from Western traditions. Quindi da rivolgere metta al corpo. Io l'ho preso in realtà dalle tradizioni occidentali. But also I've added an exercise which is taken from the Tibetan tradition. Ma ho aggiunto anche un esercizio che ho preso dalla tradizione tibetana. And that's the medicine Buddha. Un Buddha della medicina. And one opens up to forces or energies outside us, welcoming them to bring a certain healing or invigorating quality to our bodies. Quindi ci apriamo delle forze esterne al nostro corpo, invitandole a fornirci questa qualità di guarigione o di energia, di forza, di vigore. Those of you who are familiar with Reiki would know about this. Quelli di voi che hanno familiarità con Reiki forse conosceranno queste pratiche. Reiki was begun in fact by a Tendai Buddhist Tendai priest in Japan. In realtà Reiki è stato proprio inventato da un prete Tendai, un monaco Tendai, in Giappone. So this is, you know, very much within the Buddhist tradition. E quindi questo rientra nella tradizione buddista. And then we end by offering this good energy to each other. Poi terminiamo offrendo questa buona energia agli uni agli altri. And then we bring in people whom we know are sick or dying. Portiamo poi dentro delle persone che conosciamo, che sappiamo che stanno male o che stanno morendo. And as usual we offer it to all beings in all directions. E poi come al solito lo offriamo a tutti gli esseri in tutte le direzioni. So considering our wrong relationship to the body. Quindi cominciamo a considerare la nostra relazione sbagliata con il corpo. First of all, there's the sense of ownership and the sense of identity. Innanzitutto c'è questo senso di possesso e il senso di identità. So if I say things like I have a headache, then it's a relationship of possession. Se io dico cose tipo io ho un mal di testa, allora questa è una relazione di possesso. If I say I'm feeling well or I'm feeling good in a physical sense, then this is an identity with the body. Se io invece dico io mi sento bene, allora questo rappresenta una forma di identità con il corpo. And both contain a lot of suffering. Entrambi questi atteggiamenti contengono molta sofferenza. So for instance if we fall seriously ill, or if we're told we only have 6 weeks to die, Then we come across how much suffering there is in this possessing and identifying with the body. Per esempio, se ci ammaliamo gravemente, se ci dicono che abbiamo solo 6 mesi di vita, allora ci rendiamo conto di quanta sofferenza provochi questo senso di possesso o di identità con il corpo. So let's begin with the exercise to undermine our sense of possessing the body. Quindi cominciamo con l'esercizio che serve proprio a scalfire questo senso che abbiamo di possesso del corpo. The first thing is that when we are averse to something, when we don't like something, we tend to want to get rid of it. Prima cosa è che quando sentiamo dell'avversione verso qualcosa non ci piace, la nostra tendenza è di sbarazzarcene. So there's that sense of disgust that arises for parts of the body. C'è un senso di disgusto che sorge per alcune parti del corpo. So as we go through the body, just notice when this arises. Quindi man mano che scorriamo lungo il corpo, notate quando questo accade. So remember, this is also an insight practice. Ricordate che questa è anche una pratica di insight. And therefore we're not trying to get rid of the conditioning, we're trying to make it obvious to ourselves, and then of course we don't indulge it. Quindi non è che stiamo cercando di sbarazzarci di qualcosa, ma la stiamo cercando di rendere nota a noi stessi e ovviamente cerchiamo di non indulgere ad essa. And we shall see that there are antidotes. E vedremo che ci sono degli antidoti. So as we pass through the body, just be aware when any sense of disgust arises, no matter how little. Quindi man mano che scorriamo lungo il corpo, notate quando sorge questo senso di disgusto, anche minimo. There may be other reactions also arise. Potrebbero sorgere anche delle altre reazioni. So be aware of those too. E quindi siate consapevoli anche di questo. So just begin now at the top of your head and your hair and the scalp. Cominciate dalla sommità del capo, quindi i capelli e il cuoio capelluto. And just the oil that comes from the hair. E l'olio, l'unto che viene dai capelli. Come down and see the skull. Andate più in profondità e osservate il cuoio capelluto e osservate il cranio. Can you visualize, feel the bone of the skull inside your head? Riuscite a visualizzarlo, a sentire l'osso che compone di cui è composto il cranio all'interno della testa. And from there, just inwardly see the skeleton all the way down to your toes and fingers. Poi da lì cominciate a guardare tutto lo scheletro lungo il corpo fino alle dita dei piedi. Come into the brain. Poi entrate nel cervello. And just follow the nervous system all through the spine and all the way through the body. Seguite poi il sistema nervoso lungo la spina dorsale e poi in tutto il corpo. If you've seen pictures of this in anatomy books or in natural museums, of course there'll be quite vivid images in your mind. Se avete visto delle immagini di questo o in qualche documentario o qualche libro di anatomia, allora questa immagine per voi sarà molto vivida. The eyes. Gli occhi. And tears. Le lacrime. The ears. And wax. La cera, il cerume. the nasal cavities. Il naso, le cavità nasali. And fluid. Il liquido del naso. The mouth. La bocca. And saliva. La saliva. The throat. La gola. And catarrh. Il catarro. Coming down into the chest. Scendete dentro il petto. The heart. Il cuore. And again, just visualize all the arteries and veins. Nuovamente visualizzate le arterie e le vene. And blood. Il sangue. The stomach. Il stomaco. And its present contents. E i contenuti attuali. Which when they come out we call vomit. E quando escono li chiamiamo vomito. Intestines. Gli intestini. And their contents. E il loro contenuto. Bowels. Sono l'interiore. And their contents. E i loro contenuti, cioè la parte terminale dell'intestino. The bladder. La vescica. And urine. E l'urina. Sweat. Il sudore. So I've chosen all the juicy bits. Adesso ho scelto tutte le cose più succose. Was there one of them where you felt a little bit of disgust? Ce n'è stato uno dove avete sentito un po' di disgusto. So just go there now and just get in touch with that feeling. Quindi andatevi ora e entrate in contatto con quella sensazione. And see if you can change, or should we say replace this with, by seeing what it is you're looking at as an organ which functions. Vedete se riuscite a vederlo come un organo che sta funzionando. Or just the chemical components of something. Oppure semplicemente dei componenti chimici o qualcosa del genere. The second relationship we have with the body is liking it or not liking it. La seconda relazione che abbiamo col corpo è quella che ci fa piacere o non piacere. And this has also something to do with our self-esteem. E questo ha anche a che vedere con la nostra autostima. Just see your face in the mirror. What do you say about it? What's your opinions? Guardate il vostro volto allo specchio. Cosa potete dire del volto? Qual è la vostra opinione? Very rare to come across someone who's satisfied. Molto raro trovare una persona che sia soddisfatta. And because, of course, we have very high standards of what human beauty is. Perché abbiamo degli standard molto alti riguardo la bellezza umana. Perfections. La perfezione. see your body in the mirror. Guardate il vostro corpo allo specchio. So now, supposing we were instead just to see it as an organism which functions for us. Adesso proviamo a considerarlo un organismo che funziona per noi. A more practical relationship with the body. Quindi una relazione più pratica con il corpo. Not to lay upon it superficial social standards of beauty. Quindi non attacchiamoci degli standard superficiali, sociali di bellezza. And finally, there's the pleasure that the body gives us. E infine c'è il piacere che il corpo ci dà. So now, of course, this hides a great deal of suffering. This highlights. Hides. Hides. E questo ovviamente nasconde una grande quantità di sofferenza. Consider how you would feel if you lost a major sense base. Considerate come vi sentireste se doveste perdere una importante base dei sensi. Supposing you were to go blind or deaf. Immaginate di diventare ciechi o sordi. We know from people who have disabilities that this does not mean their quality of life needs to be undermined. Noi sappiamo dalle persone che hanno questo tipo di disabilità che la qualità della loro vita non necessariamente viene intaccata. But that doesn't mean there's not a lot of suffering in losing a part or a function in our bodies. Ma questo non significa che non ci sia molta sofferenza nel perdere una parte o una funzione del nostro corpo. So these sorts of contemplations help us to undermine certain wrong relationships we have with the body as something we possess. Queste contemplazioni ci aiutano a intaccare, a modificare delle cattive relazioni che noi abbiamo con il corpo riguardo a questa idea del possesso. At a deeper level, there's a problem of identity. Ma a un livello più profondo c'è questo problema dell'identità. I am the body. Io sono il mio corpo. So now this is more manifest when we consider sickness, aging and death. Questo si manifesta maggiormente quando consideriamo l'invecchiare, la malattia, l'invecchiamento e la morte. So these phrases are to be repeated and just accepted for their truth. Quindi queste frasi vanno ripetute e semplicemente accettate per la loro verità. We're not wishing ourselves to be sick, old and die. Non è che stiamo augurando noi stessi di essere malati, di invecchiare, di morire. This body is subject to disease. Questo corpo è soggetto alla malattia. This body is of a nature to fall ill. Questo corpo ha la natura di ammalarsi. This body has not gone beyond sickness. Questo corpo non è andato oltre la malattia. This body is subject to aging. Questo corpo è soggetto all'invecchiamento. This body has not gone beyond aging. Questo corpo non è andato oltre l'invecchiamento. This body is now in a process of aging. Questo corpo è in questo momento in un processo di invecchiamento. This body is subject to death. Questo corpo è soggetto alla morte. This body has not gone beyond death. Questo corpo non è andato oltre la morte. This body will die. Questo corpo morirà. So now, having undermined these two unwholesome relationships to the body, quindi adesso avendo affrontato questi due atteggiamenti non salutari riguardo al corpo, and we have to develop, of course, a wholesome relationship to the body. Ora dobbiamo sviluppare una relazione salutare con il corpo. The Buddha talks about the preciousness of human life. Il Buddha parla della preziosità dell'esistenza umana. He's quite clear that whatever forms of being there are, this is the best one to be in if we want to be liberated. Lui dice abbastanza chiaramente il fatto che per quante forme di vita ci siano, questa è la migliore per affinché avvenga la liberazione. Here there seems to be the suffering and the joy and the intelligence to make our way out of this confusion. In questa forma di vita sembra esserci la gioia, il dolore e anche l'intelligenza giusta che ci possa aiutare ad uscire dalla sofferenza. He says it's a very rare opportunity. Ci dice che è un'opportunità rara. He asks us to imagine a great ocean. Ci chiede di immaginare un enorme oceano. And there's one log floating, a log of wood floating on the water. E c'è un tronco di legno che galleggia sull'acqua. And a turtle rises to the surface for breath every 100 years. E c'è una tartaruga marina che sale per respirare una volta ogni 100 anni. How lucky it would be for it to rise and hit its head against this log. Quante possibilità ci sarebbero perché questa tartaruga salga in superficie e sbatta la testa contro questo tronco. So we can't be here without a body. Quindi noi non potremmo essere qui senza un corpo. It's through the body we come to learn virtually everything. Ed è attraverso il corpo che noi arriviamo a conoscere o a imparare praticamente tutto. It's through the body we can communicate with each other. È attraverso il corpo che comunichiamo gli uni agli altri. It's through the body that we can act in the world, create good karma. Ed è attraverso il corpo che possiamo agire nel mondo e creare buon karma. And in most meditation systems, of course, the very breath of the body is an object to develop our 7 factors of enlightenment. E nella maggior parte delle pratiche meditative ovviamente è attraverso il respiro che noi possiamo sviluppare i 7 fattori di illuminazione. So we have to engender a attitude of care towards the body. Quindi dobbiamo sviluppare un atteggiamento di cura verso il corpo. So before we begin offering it our goodwill, I think it's always a good thing to apologize for the terrible things we've done to it. Prima di sviluppare la benevolenza verso il corpo, è una buona cosa chiedere al corpo di perdonarci per tutte le brutte cose che gli abbiamo fatto. Whatever harm I have done to you. Qualunque danno io ti abbia fatto, ti abbia procurato. By word, deed or thought. Attraverso la parola, l'azione o il pensiero. By way of greed, hatred and delusion. Per via della verità, dell'odio e dell'illusione. Intentionally or unintentionally. Intenzionalmente o non intenzionalmente. I'm sorry for it. Me ne dispiace. And I determine from this day on to treat you with due care and respect. E intendo da questo momento in poi di trattarti con il dovuto, la dovuta cura e rispetto. So now we can turn this metta towards the body. Adesso possiamo rivolgere questa metta al corpo. And we have to find some phrase which expresses for us the desire for the body to be well and strong. Dobbiamo trovare una qualche frase che possiamo utilizzare per augurare al nostro corpo di essere sano e forte. Something like, may you be well and strong. Per esempio una parola tipo che tu possa stare bene, essere forte. Or free of sickness and disease. O libero dalla malattia. And just place that phrase in the heart, gently repeating it and offering it to the whole body. Quindi poniamo questa frase dentro il cuore e dolcemente la ripetiamo, offrendo questa benevolenza a tutto il corpo. Some people use color. Alcune persone usano un colore. Some people put their hands on those parts they're offering their goodwill to. Altri mettono la mano su quelle parti del corpo alle quali offrono la loro benevolenza. Whatever works to direct this goodwill to the body. Qualunque cosa funzioni per direzionare questa benevolenza verso il corpo. So let's take our time and start at the top of the head. Prendiamoci il nostro tempo e cominciamo con la sommità del capo. Offering the hair, the scalp, our blessings. Offriamo ai capelli, al cuoio capelluto, le nostre benedizioni. Come down again and visualize the skull. Quindi scendete ancora e visualizzate il cranio. Radiate it with your loving kindness. Irradiatelo con la vostra gentilezza amorevole. And continue till the whole of the skeleton is radiated with loving kindness. E continuate fino a quando l'intero scheletro è irradiato di gentilezza amorevole. Come into the brain and pour your loving kindness into that area. Entrate dentro il cervello e versate la gentilezza amorevole in quella zona. And let that loving kindness make its way down through all the nervous systems to every part of the body. Lasciate che quella gentilezza amorevole trovi la strada e entri in tutto il sistema nervoso, per tutto il corpo. Bless your eyes. Benedite i vostri occhi. Bless your ears. Benedite le orecchie. Bless your nose and nasal cavities. Benedite il naso e le cavità nasali. Bless your mouth, teeth, tongue and so on. Benedite la vostra bocca, i denti, la lingua e così via. And pour your your loving kindness into your throat. E versate la gentilezza amorevole lungo la gola. So the whole head feels warmed or energized. Quando che l'intera testa si senta energizzata e calda. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Che tu possa essere libera dalla malattia, possa stare bene, sia che tu possa essere forte. Come down the spine, beginning at the top. Venite giù lungo la spina dorsale, iniziando dall'alto. And offer your blessings to all the different vertebrae. Fate la vostra benedizione a tutte le diverse vertebre. Down the neck. Lungo il collo. Down the back. Lungo la schiena. The lower back. Parte più bassa della schiena, zona lombare, down to the very tip, questo fino giù in punta, so the whole spine feels warm and energized. Guarda che tutta la spina dorsale si senta calda e energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Tu possa essere libero dalle malattie. Tu possa stare bene e essere forte. Turn your attention to the left shoulder. Solo spostate l'attenzione alla spalla sinistra. Massage it with loving kindness. Massaggiatela con gentilezza amorevole. Down towards the elbow. Andate giù lungo il gomito. Down towards the wrist. Giù lungo il polso. And into the hand, massaging the hand with warm loving kindness. Qui dentro la mano, massaggiando la mano. Con questa gentilezza calda e amorevole. So the whole arm feels warm and energized. In modo che tutto il braccio si senta caldo e energizzato. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Possa essere libera dalle malattie. E tu possa stare bene, essere forte. Turning our attention to the right shoulder. Adesso spostiamo l'attenzione sulla spalla destra. And massage it with loving kindness. Massaggiatela con gentilezza amorevole. Towards the elbow. Giù fino al gomito. Down towards the wrist. In giù verso il polso. And into the hand, massaging the hand with warm, loving kindness. E dentro la mano, massaggiando la mano con la gentilezza amorevole calma. So the whole arm feels warmed or energized. così che l'intero braccio si senta caldo e energizzato. May you be free of sickness and disease, may you be well and strong. Possa essere libera dalle malattie, tu possa stare bene, essere forte. Turning now to the chest area. Adesso andiamo nella zona del petto. And feeling the heart. Sentiamo il cuore. And pouring our loving kindness into that heart. Versiamo la nostra gentilezza amorevole dentro il cuore. And let that loving kindness make its way through all the arteries, through every part of the body. Fate in modo che questa gentilezza amorevole trovi la sua strada all'interno di tutte le arterie, ogni parte del corpo. Returning to the chest area. Torniamo alla zona del petto. You can bless each individual organ that's there. Potete benedire ogni organo singolo che si trova in quella zona. Or you can just experience it as a felt space. O potete sperimentarlo, provarlo come uno spazio percepito, sentito. And just pour your loving kindness into that area. Versate la vostra gentilezza amorevole in quella zona. So the whole area feels warmed or energized. In modo che tutta questa zona si senta calda, energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Tu possa essere libera dalle malattie. Tu possa stare bene, essere forte. Moving down into the middle area, the midriff, the stomach, liver area. Andiamo nella parte mediana del torso, nella zona dello stomaco, del fegato. So you can again bless each individual organ, if you know them. Possiamo dare la nostra benedizione a ciascun organo, se lo conosciamo. Or just see that whole area as a felt space. Oppure vedere tutta questa zona come con un senso, uno spazio sentito. And pour your loving kindness into that area. Versate la vostra gentilezza amorevole in quella zona. Moving down now into the abdomen. Adesso scendiamo nell'addome. So here there are various systems. Ci sono vari apparati. So pour your loving kindness into that area. Versate la vostra gentilezza amorevole in questa zona. So the whole area feels warmed and energized. In modo che tutta questa zona si senta calda e energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Tu possa essere libera dalla malattia. Tu possa stare bene, essere forte. Turning our attention now to the left hip. Adesso andiamo all'anca sinistra. And massage it with loving kindness. Massaggiatela con gentilezza amorevole. And make our way towards the knee. Poi andate giù, trovate la strada per arrivare fino al ginocchio. Down towards the ankle. E poi ancora più in giù, verso la caviglia. And into the foot, massaging the foot with warm, loving kindness. E poi dentro il piede, massaggiando il piede con calda gentilezza amorevole. So the whole leg feels warm, energized. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. In modo che tutta la gamba si senta calda e energizzata, che tu possa essere libera dalla malattia, che tu possa stare bene ed essere forte. Turning our attention to the right hip, massage it with loving kindness. Adesso portiamo l'attenzione sull'anca destra e massaggiamola con gentilezza amorevole. Making our way to the knee. Leviamo il ginocchio. Down to the ankle. Poi giù fino alla caviglia. And into the foot, massaging the foot with warm, loving kindness. E dentro il piede, massaggiando il piede con calda gentilezza amorevole. So the whole leg feels warmed, energized. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. In modo che tutta la gamba si senta calda e energizzata, che tu possa essere libera dalla malattia, che tu possa stare bene ed essere forte. So we've offered our goodwill to all parts of the body. Abbiamo offerto la nostra benevolenza a ogni parte del corpo. Perhaps there's a part that needs special attention. Forse c'è una parte che richiede una maggiore attenzione. Go there now, spend a little time. Andateci in questo momento e passateci un po' di tempo. The next part of the body is not to your liking, then just continue offering goodwill to the body. Se la prossima parte del corpo non vi piace, continuate a offrire benevolenza all'intero corpo. Imagine now coming down from above a shaft of light. Immaginate adesso che scenda dall'alto un raggio di luce. And give it a color. Dategli un colore. A color which either you feel is healing or invigorating. Un colore che voi riteniate sia di guarigione o che abbia rigore, sia rinvigorente. And as it comes down, it falls a ball just above your head. E mentre scende cade su una palla che è sopra la vostra testa. And the ball begins to take on a quality of liquid or oil. Questa palla comincia ad assumere una qualità liquida o di olio. And it's slowly rotating. E lentamente sta ruotando. So there we have now, it doesn't have to be a vivid visualization. Quindi non è necessario che sia una visualizzazione vivida. Or like a sort of, for most of us, an image. Ma semplicemente un'immagine per la maggior parte di noi. So the light is pouring down into this ball, gently rotating. Quindi c'è questa luce che cade su questa palla che dolcemente ruota. And give it various qualities that you want. E date a questa palla varie qualità, le qualità che desiderate. A color. Un colore. A feel. Una sensazione, un sentire. A feel of warm liquid or warm oil. Quindi questa sensazione di liquido caldo, di olio caldo. And now just let it touch the top of your head, the scalp, and just feel those qualities there. Lasciate che tocchi la parte superiore della vostra testa, il cranio, insomma, e sentite le qualità in questo contatto. So there's an opening to other energy. Quindi c'è un'apertura ad un'altra energia. Pouring down upon our heads. Che cade sulla nostra testa. Into this ball gently rotating. Su questa palla che dolcemente ruota. So let it make its way down now through the head. Adesso fate in modo che scenda lungo la testa. Whole head now is just gently, is just feeling this energy gently rotating. Adesso tutta la testa percepisce questa energia che dolcemente ruota. And the energy from above still pouring down. Questa energia che arriva dall'alto continua a cadere. Let the ball lengthen out over the shoulders and make its way into the chest and on the surface of the chest and back. Adesso questa palla si estende, si apre fino a ricoprire le spalle e poi il petto, sia la superficie del petto che la schiena. Still pouring down from above this shaft of light. E c'è ancora questa flusso di luce che scende dall'alto. Down through the head and throat into this ball, gently rotating around the chest. Quindi attraversa la testa e lungo le spalle, a finire sopra questa palla che dolcemente sta ruotando dentro il petto. And it makes its way down to the stomach and liver area. Poi arriva più in giù alla zona del stomaco e del petto. Still pouring down from above this shaft of light. C'è ancora questo flusso di luce, questo raggio di luce che scende dall'alto. Down through the head, the throat, the chest, into this ball, gently rotating around the midriff. Quindi attraverso la testa, la gola, il petto, e arriva su questa palla che dolcemente ruota in questa zona mediana del corpo. And let it make its way down into the abdomen, don't forget the arms and elbows. Poi arriva giù nell'addome, non dimenticate le braccia e i gomiti. Still pouring down from above this shaft of light. Continua a scendere dall'alto questo raggio di luce. Down through the head, the throat, the chest, into this ball, gently rotating around the abdomen. Attraverso la testa, lungo il collo, nel petto, e giù su questa. Fino ad arrivare a questa palla che ruota nella zona dell'addome. And let it complete its journey down the legs, the hands, the feet. Lasciate che termini il suo o completi il suo viaggio giù lungo le gambe, con le mani, i piedi. Still pouring from above this shaft of light. Ancora questo raggio di luce che scende dall'alto. Coming down through the head and the throat, down the body into this ball, gently rotating around our legs. E attraverso la testa, la gola, poi tutto il corpo fino a giungere su questa palla che gentilmente ruota in tutto il nostro corpo. Now with the in-breath, draw the energy up from that ball and our own energy up the spine to the top of the head. Con una ispirazione fate salire l'energia da questa palla e poi la nostra stessa energia attraverso il corpo e su fino alla testa. And with the out-breath, let it join with new energy from above and cascade down the body. con l'espirazione fate in modo che questa energia si ricongiunga con una nuova energia che scende dall'alto e in qualche modo scende a cascata tutto lungo il corpo. Just breathing in and up. Quindi si inspira e l'energia va su. And out breath, the energy going cascading down. E espirando questa energia come se cascasse giù lungo il corpo, scendesse a cascata. And if there's a part that needs special attention, let that energy go through it like water through a sponge. Se c'è una parte che ha bisogno di maggiore cura, attenzione, lasciate che questa energia la attraversi, come se passasse attraverso una spugna. Now we can share these energies with each other. Adesso possiamo condividere queste energie gli uni con gli altri. From your neighbor on the left, as you breathe in, receive those energies and bring them into the whole body. Quindi mentre inspirate, ricevete le energie dal vostro vicino sulla sinistra e portatele, fatele attraversare l'intero corpo. And imagine that you're blowing up a balloon. Immaginate che state soffiando su un palloncino. And with the out breath, offer all these energies from above, from within, and from your neighbor to your neighbor on the right. E poi con la espirazione offrite queste energie che arrivano da di fuori, da di sopra, dentro il vostro corpo e dal vostro vicino, e offritele al vostro vicino di destra. Just breathing in. Inspirate. And breathing out. Ed espirate. So now we can bring to the attention of the group anybody we know who is sick or dying, and we need only just call out their name. Adesso possiamo portare all'interno del gruppo le persone che conosciamo, che sono malate, che stanno morendo, e possiamo semplicemente dire il loro nome. Lucia. Rhoda. Orette. Margaret. profondo. Silvia. Franca. Martin. Pete. Francesca. Carla. So for these people, breathing in those three energies from above, from our neighbour on the left, and from within, into the heart, and offering it to all these people. Quindi adesso assorbiamo queste energie dal di sopra, dal di dentro, dentro di noi, dal nostro vicino di sinistra, dal nostro vicino di destra, dentro il nostro cuore, e offriamole a tutte queste persone che abbiamo nominato. May you be free of sickness and disease. Che possiate essere liberi dalla malattia, dai malanni. May you be well and strong. Possiate stare bene, essere forti. To those who are dying, per coloro che stanno morendo, may you die at peace with the world. Che voi possiate morire in pace con il mondo. And as always, we offer our goodwill to all beings in all directions. Come al solito, offriamo la nostra benevolenza a tutti gli esseri in tutte le direzioni. May all beings be free of physical pain. Che tutti gli esseri possano essere liberi dal dolore fisico. May all beings be free of mental distress. Che tutti gli esseri possano essere liberi dalla sofferenza mentale. May all beings be liberated of all their sufferings. Che tutti gli esseri possano essere liberi da tutte le loro sofferenze. May all beings live in harmony and joy. Che tutti gli esseri possano vivere in armonia e in gioia. May all beings experience the peace and bliss of Nirvana. Che tutti gli esseri possano sperimentare la pace e la beatitudine del Nirvana. May all beings be happy. Che tutti gli esseri possano essere felici. Sabe, sagra, sucita, ontu. Sabe, sagra, sucita, ontu. Sabe, sagra, sucita, ontu. Sadu, sadu, sadu. Let me take that one.